su Wikipedia e cercare appunto Fulvio Abbate, che è, secondo me, a mio modesto avviso, uno degli scrittori più interessanti che c'è nel panorama italiano in questo momento, ma non solo, cioè non è solo uno scrittore, anzi, io in realtà Fulvio Abbate l'ho conosciuto su Facebook quando postava le sue puntate, cioè io ero su Facebook da poco e lui postava le sue puntate di questa sua TV personale chiamata Teledorruti, e poco dopo ha scritto questo saggio che si intitola Manuale italiano di sopravvivenza, come fare una televisione monolocale e vivere felici in un paese perduto, che io l'ho trovato non solo un titolo ma un libro veramente splendido e molto vicino a quello che è il mio fare, e anche una soluzione ottimale per chi, come lui e anch'io e molto probabilmente anche tantissimi ascoltatori di Radio Città Fuggico, vivono la frustrazione di abitare in un paese come l'Italia ma non sanno come sfogarsi, e lui genialmente proprio si è inventato Teledorruti, se non sbaglio nel 2000, dopo ce lo racconta, e comunque proprio come valvola di sfogo per le disgrazie di questa povera patria. Il 25 aprile è passato, l'abbiamo festeggiato, l'avete festeggiato, spero che l'abbiate festeggiato, adesso ci aspetta un altro primo maggio in casa, ma prima di partire ad ascoltare la registrazione dell'intervista che ho fatto con Fulvio qualche giorno fa, ascoltiamoci qualcosa. Stealing of the nation, so legalize it worldwide. Yeah. This is the PDC alongside Color Color Network. Give me the CBD and the THC. You're rocking with the ganja, smoking PDC. It's good for you, it's good for me. So why don't you legalize the sweet sense? Give me the CBD and the THC. You're rocking with the ganja, smoking PDC. It's good for you, it's good for me. So why don't you legalize the sweet sense? Free up the marijuana, me say, from every angle. Stop lock up people in a chain and shackle. Long time, this revolution fi happen them. Free up the silk and them free up satin. And them want the envy forgotten. But free up the weed, yo, free up the weed. Chop, free up the weed, the good ganja weed. Chop, free up the weed, the good cali weed. Yo, herb of the healing of the nation, yes. And it blessed from creation, yeah. And it's a sacrament for all the rastas. Give me the CBD and the THC, yeah. You're rocking with the ganja, smoking PDC. It's good for you, it's good for me. So why don't you legalize the sweet sense? Give me the CBD and the THC. You're rocking with the ganja, smoking PDC. It's good for you, it's good for me. So why don't you legalize the sweet sense? You better be a rat of heroin and LSD. No drug can make you happy like the Almighty. Now is the time of revelation. See that ganja is the healing of the nation. It's good for relaxation and also for meditation. In bad times it brings liberation. So light it up and feel the sensation. In the sunshine with a good vibration, laid back, enjoy the aeration. Vaporized ganja, it's for a medical use. It's a pity that ganja farmers get abused. Give me the CBD and the THC. You're rocking with the ganja, smoking PDC. It's good for you, it's good for me. So why don't you legalize the sweets and say, see that ganja is the healing of the nation. See the aeration, it's a plant. Light it up. Ganja is a plant. Light it up. Plant by Jah, the creator. Free up the earth. Worldwide. Hey. BDC. Color Color Network. Ciao, siamo le Linking Fingers e questo è Coxo Spaziale. Give me the CBD and the THC. You're rocking with the ganja smoking PDC. It's good for you, it's good for me. So why don't you legalize the sweets and see? Give me the CBD and the THC. You're rocking with the ganja smoking PDC. It's good for you, it's good for me. So why don't you legalize the sweets and see? Innanzitutto volevo dire che per me è un grandissimo onore avere Fulvio Abate. Ma cazzo di onore, che onore, che diciamo queste stronzate che sono gli stronzi, la categoria dell'onore. Il marchese Fulvio Abate, abbiamo a Coxo Spaziale, fantastico. In occasione di un tuo nuovo libro, che non è un tuo nuovo libro, ma un tuo vecchio libro, che viene ristampato, aspetta. No. Ecco, no, spiegami tutto perché io non ho capito niente. Ho letto l'articolo del Piccolo, ma non ho capito niente. Errore. Ecco. Io ho riscritto un romanzo ex novo che avevo già pubblicato 24 anni fa con Bompiani. Quindi non è la ristampa di un libro. 24 anni fa... io avevo scritto La peste bis, una parodia in senso alto della peste di Albert Camus. Certo. In questi giorni di pandemia, era uscito nel gennaio del 97 La peste bis. In questi giorni di pandemia, a un certo punto, da Parigi, un amico astronomo ha pubblicato la foto del libro di 24 anni fa, dicendo di star trascorrendo la quarantena rileggendo La peste bis. A quel punto io ho pensato di voler riscrivere quel romanzo e così ho fatto. Ho chiamato Elisabetta Sgarbi, il mio editore, all'epoca attraverso Bompiani, adesso attraverso La nave di Teseo, che lei ha fondato insieme a Umberto Eco, e le ho detto: io sto riscrivendo il mio romanzo. E a un certo punto ho anche ritenuto opportuno che, avendolo riscritto, dovesse cambiare anche il titolo. E il nuovo titolo è La peste nuova. Ecco, è la storia che porta con sé alcuni interrogativi filosofici rispetto al tema della salvezza, rispetto al tema del ruolo dello scrittore, dell'intellettuale in un momento di difficoltà estrema, dove sembra che le uniche mani necessarie siano quelle capaci di introdurre un ago ipodermico e svuotare una sacca di catetere. Ecco, il protagonista Guido Battaglia. Il protagonista è lo stesso o l'hai cambiato? Non è lo stesso. No, lui è lo stesso. Ha un altro nome. Ah, okay. È lo stesso, è un inventore di barzellette, una metafora per intendere lo scrittore. Mentre degli scrittori noi conosciamo i volti, nessuno ha mai visto in faccia l'inventore, metti, della barzelletta, della brioche. Nulla si sa. Si è detto addirittura che possano essere addirittura i marziani ad inventare le barzellette, o piuttosto i carcerati, perché hanno molto tempo a disposizione. Ecco, la metafora è questa, e come avviene nelle grandi storie delle pestilenze, il Decameron, il racconto delle mille e una notte, c'è un committente, che nella fattispecie sono due ragazze meravigliose, che promettono a Guido, il protagonista, meraviglie sessuali, di donare i loro corpi qualora lui riuscisse a inventare la barzelletta definitiva che liberi le città dalla peste, ecco, e faccia cessare l'epidemia. c'è il tema della speranza, che è un concetto che io rifiuto, perché non so di cosa sia fatta la speranza, di che materia. C'è il tema del limite. Il Papa, che nel romanzo si chiama Salvatore II, perché Salvatore I è morto da poco, poco prima, e sul trono di Pietro è giunto Salvatore II, forse questo è l'unico riferimento che ci rimanda all'attualità, è costretto a parlare ai fedeli da remoto, e il massimo che potesse fare era mostrare il Santissimo Sacramento come fosse la criptonite della Chiesa, ma non sembra che questo sia servito. Il tema della preghiera: se in casa A pregano, in casa B pregano altrettanto, ma stanno piovendo dal cielo le V2 tedesche su Londra, perché mai A debba essere salvato, possa essere, si salvi, e B invece muore, muoia? Per quale motivo? Forse le preghiere di casa A valgono meno delle preghiere di casa B? Forse Dio ha un'idea discrezionale rispetto alla salvezza? Ecco, è un romanzo profondamente filosofico, ecco questo. No, infatti sono temi a me cari naturalmente, ma sono temi veramente profondi. E fra l'altro, non lo so, permettimi, rispetto alla Peste Bis, dove c'erano degli elementi di maggiore ironia e prosaicità, in questo nuovo romanzo, pur rimanendo, diciamo, in parte intatta la struttura, perché anche lì c'era un inventore di barzellette, tutto ciò che lì era prosaico smette d'esserlo, e anche la lingua non è mai incline a quello che banalmente potrebbe essere definito lo sceno, ecco. Ho capito. Mentre tu parlavi, io pensavo che in realtà questo momento storico calza a pennello per questa tua uscita, no? Fra l'altro la settimana scorsa, visto che questa puntata andrà in onda lunedì, la settimana scorsa è uscito digitalmente quando ancora non si poteva andare nelle librerie, e il giorno in cui possiamo andare nelle librerie esce fisicamente il libro, giusto? Mi sbaglio? Certo, al momento in questi esce il 22 aprile in ebook. Appena sarà possibile, diciamo, tornare alla vita delle librerie, ci sarà anche il cartaceo. Voglio dire che la copertina è di Mariano Rossano, un artista straordinario che aveva già fatto la copertina del romanzo di 24 anni fa. Se io penso che sono trascorsi 24 anni da quel mio libro, rimango in qualche misura sbalordito, quasi un quarto di secolo. Incredibile davvero, ma io che il romanzo originale non l'ho letto, secondo te devo leggere prima il primo e poi il rifacimento? No, va bene, assolutamente, non è necessario. Okay. Il romanzo originale, che è esaurito da tanti anni, diventerà, e credo già adesso sia, una rarità bibliografica, e quindi immagino che qualcuno cercherà di accaparrarsi le rare copie che sono rimaste. Su eBay avrà raggiunto un prezzo altissimo. Mare magno. Senti, ma invece io volevo anche parlare di Teledor Ruti, perché tu... Teledor Ruti è finita, lo sappiamo. È finita, esatto. Sì. Allora, innanzitutto perché è finita Teledor Ruti ed è diventata PAC? Come mai questa decisione di cambiare? Allora, la decisione è stata suggerita da un bisogno di estrema laicità. Non avere nulla che potesse, te lo dico in soldoni, farmi assimilare a una dimensione politico-ideologica. Ho capito. E quando qualcuno mi ha detto, insultandomi, che io non avevo, diciamo, il diritto morale, etico, per pronunciare il nome di Durruti, posto che tutti noi possiamo pronunciare i nomi di chiunque, mi sono detto no, io non ho più intenzione di ricevere battute come se stessi usurpando qualcosa, perché io rispondo unicamente a me stesso. Ed è avvenuto a Milano, mentre stavo alla stazione centrale di Milano, esattamente un anno fa, il 29 marzo dell'anno scorso. E non ti è venuto in mente di chiamarla Tele Berlusconi, no, naturalmente? No! Perché avrei dovuto chiamarla Tele Berlusconi? Ma non lo so, per provocazione. No, invece no, io in realtà volevo parlare del libro in cui parli di Tele Durruti, perché per me adesso in realtà è un po' che non lo vedo in casa mia, ma per un bel pezzo è rimasta una sorta di Bibbia, perché il sottotitolo era bellissimo. Com'era il sottotitolo del libro? Ricordamelo, che non mi viene in mente. Manuale di sopravvivenza. Giusto. No, ma non parli del romanzo Tele Durruti, tu stai parlando di... del tuo manuale. Manuale di sopravvivenza, sì, che non ha avuto una grande diffusione, l'editore era piccolo, però ora che mi ci fai pensare, diciamo, è stato un modo. Talvolta quando mi intervistano mi parlano come se io fossi un precursore, ma io non mi sento un precursore. Devi sapere che io facevo tanti anni fa la radio, poi sono stato espulso dalla radio. E la radio, diciamo, quella radio che si chiamava Italia Radio è stata acquistata dal gruppo L'Espresso. Non c'è stato nessuno che sia venuto, nonostante io fossi apprezzatissimo e facessi una trasmissione, diciamo, che era un punto di riferimento per molti, il sabato mattina. E quando mi è stato possibile, anni dopo, nel 98, la storia della radio è finita appunto nel 98, e che anno sarà stato? Sì, il 98, poco dopo, mi sono inventato una televisione privata del centro Italia, Teleambiente, ed è nata Tele Durruti nel 98 ed è durata fino al 2003. Nel 2007, quando finalmente ho comprato un computer in grado di supportare YouTube, a quel punto ho aperto un canale chiamandolo Tele Durruti. Ed è nata così. Nel 2007, sì, non sei stato un precursore, ma sei stato comunque... devo dire che a me hai dato lo stimolo per fare tantissime cose, tra cui cosa che non ho ancora fatto, appunto... Partire un canale YouTube come si deve, insomma. Che vuol dire come si deve? Io non ho mai montato, perché diciamo i video che giro, io li chiamo filmini fra l'altro, certo, assolutamente, che giro fuori per strada col mio cellulare, io ho delle perle, diciamo, in archivio. Premetto fra l'altro che io ho subito anche un'aggressione in rete. Nel 2015 degli hacker, sarei felice di conoscere l'identità culturale, diciamo, se non altro, di questi soggetti, sono entrati e hanno cancellato quelli che erano nel numero di 4.800 video. Wow, addirittura. Di Tele Durruti, e ho ricominciato da capo. Alcuni video li ho ricaricati, molti li ho persi perché all'inizio utilizzavo un'applicazione che non mi lasciava il file del video. Comunque, cioè, mi dispiace solo per il primo video in cui in modo goffo, volutamente goffo, dicevo questa televisione si chiama, cioè no, sai, questa televisione, di cosa parleremo? No, non so di cosa parleremo. Ecco. È andata così. Tu comunque sei un personaggio strano, nel senso che spesso c'è gente che ti vuole un male infinito e io non lo capisco sta cosa qua. No, questo l'ho notato. Se tu diciamo, che profilo hanno questi che mi vogliono un male infinito, secondo te? Non lo so, cioè sono dei semi-lobotomizzati, non saprei. Anche la settimana scorsa, nella mia trasmissione, ho intervistato questo artista che si chiama Giancarlo Norese, che è un po' come il tuo amico Pino Boresta, no? Un totale outsider. Ma come si fa a non volere bene a gente come te, come Pino Boresta o come Giancarlo Norese? Per me è veramente incredibile questa cosa. Sì, però non mi hai detto, diciamo, il profilo di quelli che mi dite. Fra l'altro, io sono una persona di estrema gentilezza e mi pongo con gli altri da persona a persona. No, infatti io penso alle persone, quelli che ti hanno buttato fuori dall'unità a suo tempo, no? Ogni tanto tu ne parli, eccetera. Cioè, no, ma queste sono storie vecchie, insomma, appunto. Diciamo che io sono sopravvissuto a tutto, insomma. Cioè, detto tra noi, secondo me quelli che ti vogliono male sono fondamentalmente dei fascisti, che poi lo siano strutturalmente, politicamente o non lo so. Cioè, tu dici questo, ma io sono riuscito a conquistare l'astio, diciamo, di un certo centro di sinistra. Michele Serra mi ha dato del fascista per un articolo che avevo scritto, nel quale parlavo della sua casa di profumi che ha insieme alla moglie, che si chiama Serra e Fonseca, dove produce un profumo che si chiama Eau de Moi, acqua di me, che contiene, io suggerisco a tutti di andare a guardare il sito della Serra e Fonseca e leggere il bugiardino, parole che su cuore sarebbero state massacrate. Non saprei. Ecco, per esempio, Michele Serra perché ti vuole male? Solo perché gli hai preso per il culo il bugiardino del suo Eau de Moi? Non so. Soprattutto perché gli ho messo in discussione una cosa che gli fa fare la moglie. Vabbè, voglio dire, abbiamo tutti una moglie che ci fa fare qualcosa che magari non vogliamo fare. Ma infatti, secondo me, cioè quello che, di cui secondo me tu sei esemplare, è proprio questa libertà. No, cioè, a me non ne frega nulla di rivendicare la mia libertà, perché c'è una retorica assoluta nel dire io sono libero. Caro Stefano, ti dico una cosa molto semplice: io dovunque vada mi pongo sempre allo stesso modo, così come mi pongo con te allo stesso modo mi ponevo con Francesco Cossiga, che praticamente andava a casa sua e lui adorava un video di Tele 2 Ruti, quello sulla sciarpa con il nodo a cappio, che io dicevo che è il tipico modo di portare la sciarpa da parte dello stronzo. E poi gli dicevo, un giorno di questi vengo qui in pigiama e facciamo un video dove io dico, tu mi hai obbligato con quelle tue cazzo di leggi speciali a farmi le canne appoggiato alla sella di un vespone, e rischiava, perché hai fatto chiudere i teatrini Hof come potenziali Covid durante le leggi speciali dopo il 70, dopo il 78, 77. Quindi adesso vengo a vivere qui a casa tua, chiaro? E lui rideva e mi adorava. Poi gli dicevo, ma togliermi una curiosità, Francesco, ma Ratzinger è omosessuale? No, assolutamente. Però mi raccontava di altre figure, diciamo, di noti omosessuali della Democrazia Cristiana, come ad esempio Emilio Colombo, quando io ero maurista di Servire il Popolo, le manifestazioni dicevano governo Colombo, tasse e piombo. Vabbè, basta con queste miserie, andiamo oltre. E dunque adesso che cosa, oltre a fare tutti questi live su Facebook che noi guardiamo? Ho cominciato a farli da un po' di tempo e vedo che piacciono, è così. No, infatti funzionano bene quando uno, anche perché Facebook, diciamocelo, serve a passare del tempo, per cui quando uno passa su Facebook, vede la tua faccia, se ne ha voglia o se abbiamo tempo, ti guardiamo volentieri, insomma. È una sorta di pack dal vivo, no? Sì. Ma oltre a questo cosa stai scrivendo adesso? No, adesso non sto scrivendo niente perché... Pensa che doveva uscire un mio libro con Bompiani, intitolato Abbasso l'Italia, e al momento è tutto fermo, ma sono felice che esca invece la peste nuova. E qualche mese fa era uscito una favola illustrata da mia figlia, I Promessi Sposini. Quindi faccio l'editoriale per Huffington Post, per l'Inchiesta, per Il Riformista. Sono un opinionista, un editorialista. E la cosa singolare è che fanno una fatica enorme molti a riconoscere non il mio talento, ma la mia esistenza, perché non è narcisismo, ma non gli va giù che possa esistere qualcuno che, diciamo, sono stato costretto a rispolverare un titolo nobiliare remoto e decadutissimo, quello di Marchese, per marcare ulteriormente la mia alterità rispetto agli altri, perché io sono persona. L'avevo scritto anche sotto il, dove tu scrivi nei social la tu cosa sei. Mm-hmm. Poi un giorno, tempo fa, ho scritto virologo e qualcuno mi ha insultato come pensando che fossi davvero un virologo. Meraviglioso davvero. No, ma infatti meravigliosa è che io riesco a prendere insulti dai renziani, insulti dai grillini, insulti dai comunisti, e questo è dai fascisti. Certo. Poi, tempo fa avevo scritto un articolo su Cesare Battisti, che io reputo una faccia di cazzo di una supponenza assoluta, la supponenza, e sono stato minacciato da ex brigatisti. Questo per me è straordinario. Adesso invece prossimamente voglio fare un articolo, diciamo, nel quale si chiedano i domiciliari per Cesare Battisti. Ecco, in nome della sua supponenza lo si mandi a casa e non se ne faccia una vittima martire di quattro coglioni da centro sociale con la canna fumaria abusiva. Il nostro tempo è finito, ahimè, perché la mia trasmissione ha un suo percorso. Io ti ringrazio moltissimo. Sono io che ti ringrazio. Vuoi che canti una canzone? Dai, cantaci una canzone. Aspetta. Beh, che io spesso al mattino mi sveglio e canto. E una canzone che canto spesso fa così: uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, uca, e posso andare avanti per ore intere, insomma, a modulare questo meraviglioso uca, uca, uca, uca, uca. Stefano, un abbraccio e fammi sapere. Benissimo, grazie ancora. A te. Ciao, a presto. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. E ringraziamo il fantastico Fulvio Abbate e vi ricordiamo che il suo nuovo libro, La peste nuova, è disponibile come ebook al momento dal sito della Nave di Teseo. Naturalmente troverete l'indirizzo su www.coxospaziale.blogspot.com da domani. E ringraziamo anche la fantastica Francesca Grispello di Simpress 44 che ci ha appena fatto ascoltare questo pezzo che si chiama 25 aprile di L'epitaffio di Sicilo, il 25 aprile di tre giovani creativi in quarantena, dice il comunicato stampa. Finché vivi, mostrati al mondo, non affliggerti per niente, la vita dura poco, il tempo esige infine il suo tributo. Queste sono le parole dell'Epitaffio di Sicilo, un documento dell'antica Grecia considerato il più antico brano musicale completo di cui abbiamo traccia, che rivive in occasione della festa della liberazione nella rilettura di Antonio Cece e Ludovica Bastianini. La giovane coppia creativa napoletana, chitarrista lui, fotografa e artista visiva lei, rivisita il frammento in tempo di Covid-19 collaborando con l'amico clarinettista Nico Sommese e con un messaggio di speranza e forza nel giorno del 25 aprile. Questo brano tocca corde profonde, soprattutto in questo momento così duro per tutti, nella solitudine, nella paura e nella distanza dai propri cari. Non è facile comprendere fino in fondo il valore di queste parole così antiche. Cerchiamo di vivere la quarantena come un'occasione unica per osservare meglio la nostra realtà, nonostante il dolore, per sentirci più vicini alle persone che amiamo e a chi sta combattendo contro la malattia. Non potevamo trovare occasione migliore che la festa di liberazione per condividere questo pensiero. E appunto abbiamo sentito questo epitaffio di Sicilo suonato da Antonio Cece, Nico Sommesa al clarinetto e alla voce, e anzi domani sul blog troverete anche il link di YouTube, Ludovica Bastianini ha fatto anche l'animazione che troverete appunto online da sabato scorso. E questa invece era la versione live di I Wanna Be Your Dog di Billy Blade and the Electric Razors, trovata su YouTube. Ma abbiamo ricevuto anche una precisazione rispetto a Giancarlo Norese, la cui trasmissione abbiamo sentito la sua intervista un po' particolare la settimana scorsa, e la nostra amica fantastica Chiara Pergola ci ha mandato questo messaggio WhatsApp. Nella puntata su Giancarlo Norese mancava il punto di vista di Chiara Pergola, assidua di questa trasmissione e nota collezionista di brand che vanta ben due pregevoli pezzi di Norese all'interno della propria collezione. Poniamo rimedio. Beh, intanto Giancarlo Norese è l'unico artista italiano degno di questo nome e questa mi sembra la cosa più importante. Il segreto del suo essere, come dice Annalisa Cattani Highlander, è non svegliarsi mai prima delle 11, e questa ricetta era già nota a Lucia Bosè, che l'ha espressa efficacemente in Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni al minuto 15:06. È importante sapere che nel 2015 Giancarlo Norese ha dipinto Red Marks with Hammer and No Sickle, Marks rosso con martello senza falce, un'opera pregevolissima che è stata esposta nel 2017 presso la Galleria Daniel Boeri di Monaco e che attualmente è parte della mia collezione. In questo contesto è stata da me ribattezzata come Marks femminista, essendo il rosso utilizzato per la tela un rosso magenta. Infine, nel 2018 al Forum dell'Arte Contemporanea, al tavolo sulla sopravvivenza dell'artista, ha proposto di colonizzare un pianeta disabitato per ripartire da zero e capire cosa è realmente importante. Lo sai uno dei segreti per mantenersi belle? Dormire. Dormire, dormire. Coxo spaziale! E dunque, per rinsavirci un attimo, abbiamo bisogno di almeno 2 minuti di Lolly. I 2 minuti di Lolly hanno una durata percepita variabile. Chissà dove sei, perduta nella notte, col tuo trucco infame, la tua giacca da bandito. Io ti ho aspettato all'ombra dei tuoi percomi, col mio viso angelico percosso dai fatti. Già finito? Grazie. E come avete sentito, anche la mia voce sta scomparendo e anche questa puntata di Coxo Spaziale è giunta al suo termine. Ci sentiremo nel giorno dell'inizio della fase 2, che sarà il 4 maggio, per cui chissà cosa succederà. Naturalmente io e forse anche Fedra continueremo a registrare queste puntate per Radio Città Fujiko da casa, ma speriamo di poterci rivedere in studio, non dico subito, ma magari in un tempo non troppo lontano. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale naturalmente, e l'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle 19, sempre su Radio Città Fujiko, e come al solito vi lasciamo con le parole dell'esimio direttore. Ciao! Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Where are you going? Where are you going? We had a good thing, you're running out on it. Where are you going? Baby, I'm jonesing. You are the drug that I'm coming down from. We gotta put it out in the open. You are the mess I won't live without, yeah. Where are you going? Where are you going? We're so in love, but it's running out. Spark my life, then let me burn out. Fire-filled eyes, it's about to burn down, yeah. Fooled each time, the type we learn about. The type we learn about, yeah. I'm filled with hate because I love you, yeah. Still I pray that this will come true, yeah. Take my pain and put it on you. That I'm coming down from. You gotta put it out in the open.